Dicono gli industriali: voi siete l'offerta, noi compriamo se il prodotto è buono. Le aziende sono molto attente a comprare il miglior prodotto al prezzo più basso. Perciò, caro Bistoni, dovremmo proseguire sulla strada del confronto diretto che hai già ben avviato. Università e industriali trafficano promettendosi prodotti. Ma quali prodotti? Semplice, noi studenti. Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf. Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf. Ma che cosa c'è? Salve da Anna Adamolo e Adamolo Anna. Buonasera, bentornati all'undicesima puntata di Radiofonica. Bene, di cosa parliamo oggi? Allora, parliamo di un incontro e di un'associazione e poi di tante altre cose. Allora, lunedì 11 gennaio, presso il 110 Caffè di Via Pascoli, qui a Perugia, si è svolto l'incontro Università Quali Risorse. Questo incontro è stato promosso dall'associazione Università per l'Umbria. E i protagonisti di questo incontro e i relatori erano Mannarino, i rettori delle due università perugine, cioè la Giannini e Bistoni, e alcuni rappresentanti degli industriali umbri, oltre cui, che le autorità. Il presidente degli industriali umbri, Bernardini, di cui abbiamo già stralciato alcune citazioni. Abbiamo già stralciato alcune citazioni nella presigla e da cui stralceremo altre ampie citazioni. Esatto, perché ha un modo di ragionare molto interessante, soprattutto se rapportato alla situazione dell'università. E comunque era presente anche il sindaco di Perugia, Vladimiro Voccali. Va bene, allora innanzitutto cerchiamo di contestualizzare. Cos'è l'Università per l'Umbria? Allora, l'Università per l'Umbria è un'associazione di diritto privato che nasce nella scorsa primavera e dà come presidente il nostro rettore ed altri 30 soci fondatori che vedremo in seguito hanno comunque una certa attinenza con l'Università Umbra, cioè con l'Università di Perugia, non con l'Università per l'Umbria. Sì, dunque, allora, dallo statuto, che è reperibile sul sito internet www.universitaperlumbria.qualcosa, comunque, si evince, non visitatelo. Si evince che l'Università per l'Umbria persegue la finalità di promuovere e sostenere il ruolo centrale dell'Università di Perugia nella società umbra, quale risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e culturale dell'Umbria. Ma scusa, cioè, l'ente università non basta già per far questo? Che vantaggio c'è a creare un'associazione di diritto privato Università per l'Umbria? Lo so, il buon senso porterebbe a dire che già l'università dovrebbe perseguire le finalità di promuovere e sostenere il ruolo centrale dell'università nella società umbra, e l'università dovrebbe valorizzarsi come risorsa fondamentale per lo sviluppo economico, ma soprattutto culturale, della regione. Ma evidentemente non è così. Va bene, allora abbiamo capito. Continuiamo a leggere lo statuto, dunque. C'è scritto che a tale scopo, cioè allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra, l'associazione Università per l'Umbria potrà promuovere, organizzare e realizzare manifestazioni, collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, eccetera, eccetera, realizzare iniziative culturali pubblicistiche, l'edizione e la distribuzione di rivisti e bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei, promuovere e o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza. Quindi, è quello che deve fare l'università. È quello che deve fare l'università. Ma la domanda è, in questo incontro al 110 Caffè, allora, il nostro magnifico rettore Bistoni era presente lì come rettore o come presidente di questa società che promuove iniziative idonee al raggiungimento di obiettivi sociali, cioè dell'associazione Università per l'Umbria? Cioè, allora, la domanda non è... Qui ci troviamo di fronte a un certo conflitto di interessi. Eh sì, perché la domanda non è capziosa, come si dire. Esatto. È interessante, ci vuoi spiegare? Perché intanto c'è una sorta di morsa che Bistoni sta facendo sull'università, cioè la sta governando da dentro e da fuori con questa associazione, e questo è appunto un conflitto di interessi, perché ha due cariche diverse con la quale gestisce la stessa cosa. Ma dov'è il problema? Più che gestisce l'università, può parlare di un'università, esatto, diciamo, sia all'interno che al di fuori, esatto, gestendo a piacimento una delle due cariche con cui presentarsi. Esatto. E intanto va detto che l'11 gennaio Bistoni parlava come presidente dell'associazione. Mm-hmm. E questo è abbastanza agghiacciante. Comunque, diciamo, perché, che, diciamo che se lui presiede come presidente dell'associazione un incontro svolto al 110, che è un luogo che è chiaramente non universitario, sebbene pare sia stato anche comprato con l'aula del 110, abbia avuto anche finanziamenti da parte dell'università, comunque sia, cioè, in sostanza lui parla di università parlando con industriali e politici in sedi non deputate. Esatto, ma infatti, cioè, affinché lui possa parlare da rettore è necessario che lui consulti preliminarmente gli organismi democratici di cui è a capo, cui è stato delegato, insomma. Invece, se in qualità di presidente dell'Università per l'Umbria non ha diritto a parlare e a decidere delle sorti dell'università, che appunto è di tutti, ha le sue sedi democratiche attraverso le quali le decisioni devono passare, che poi sarebbero i consigli di amministrazione e il senato accademico, e dunque implicherebbero, almeno in linea teorica, la partecipazione di chi l'università la vive e la fa vivere. E va anche ricordato che in precedenza delle elezioni comunali di Perugia, Bistoni, in qualità di presidente di questa associazione Università per l'Umbria, ha incontrato tutti i candidati. Ora, io da studente, ovvero da ragazzo che fa vivere l'università, gli chiedo come si permette di fare questa cosa, cioè di parlare a nome di presidente dell'associazione e dell'università con dei politici. Vabbè, comunque sia, io in effetti un po' Bistoni lo capisco. Lui appena ha avuto l'idea di fare un'associazione privata per seguire meglio gli interessi dell'Università di Perugia, cioè tipo Bertolaso, insomma, sì, tipo Bertolaso con la protezione civile, tutti subito hanno voluto aderire come soci fondatori. Infatti, se noi apriamo lo statuto, vediamo che tra i 30 soci fondatori c'è una serie di personalità, di professori ordinari e non, insomma. Sì, sì, ci sono tanti professori ordinari di medicina, come lo stesso Bistoni, perché ricordiamo che Bistoni viene da medicina. No, ma sarà una casualità che medicina è sempre così, sì, florida. Poi pensare male, c'è colui che sarebbe diventato, forse non casualmente, il preside della facoltà di scienze. Chi? Tessera numero 25. Fausto Elisei. Esatto. Il prorettore e decano. Ah, Antonio Fieretti. Che tu conosci bene. Sì, sì. Che sta all'elenco da qualche parte, comunque sia, è il numero 29. Poi, tra l'altro, vari membri del senato accademico, sì, tra cui anche Carlo Fiorio, non ricordo bene, comunque sia, no, del CDA è questo, mi pare che sia un membro del CDA. C'è anche il presidente dell'ADISU, Maurizio Liviero, che sta al numero 8. Cioè, tutta una serie di persone che comunque sia già all'interno dell'università ricoprono delle cariche. Esatto. E questi qua sono tutti soci fondatori di questa università, Associazione Università per l'Umbria. Comunque, al 110 già costa prendere un caffè, figuriamoci quanto ci costerà. Sì, diciamo, questa è l'unica cosa su cui sono d'accordo. Il 110 non era proprio il luogo adatto. Vabbè, comunque andiamoci a prendere una tazzurella e caffè, va. Fanno sapere, noi ci puzzamo e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè, una tazzule, le caffè, che sigaretta coppa per non pare, che stanno chi ne sbaglia, fanno solo un broglio, salisciano, si fattono, si pigliano il caffè, e noi passiamo e vai, noi non potremmo su. Yeah. c'ha bocca chi non può sapere. E noi tiriamo a nanzo che rulure e panza, e invece ci aiuta c'ha buffa di caffè. Una tazzone le caffè, che sigaretta coppa per un barè. Saizza ne palazzo, fanno cose pazze, ci girano, ci avvotano, ci vengono i tassi. E noi passiamo le guai, noi non potremmo supportare. E chi sta invece la namare, sono vissono, sono vattono, sono magno la città. E va bene, dopo questa tazzurella, tazzulelle caffè, perché abbiamo scoperto tazzulelle caffè, no? Tazzurella caffè, riprendiamo un po' il filo. Dunque, stavamo parlando di questo incontro svoltosi al 110 Caffè, si chiama Università Quari Risorse. Allora, c'è da dire che Bistoni, anche se si è presentato lì in qualità di presidente di questa associazione che ha organizzato l'incontro, ha ripetuto le stesse, cioè ha fatto il solito intervento, ha ripetuto le stesse cifre della crisi che ripete da un anno e più, e ha ripetuto che l'università sta male, bla bla bla, insomma ha detto più o meno le stesse cose che ha detto tra l'altro poco tempo dopo all'inaugurazione dell'anno accademico, che ovviamente diciamo è il luogo principe, cioè lui è il relatore ufficiale. Esatto, infatti è interessante questo modo di procedere, sì, no? Per cui tutti i mali vengono dal governo, lui poverino è una vittima, non gestisce affatto il potere e si trova un po' lì, purtroppo per lui. Comunque, dopo di lui è stato molto interessante l'intervento della Giannini, la rettora dell'Università degli Stranieri, che ha messo subito in chiaro alcuni punti. Sì, sì, ha messo subito in chiaro che forse c'è qualcosa che potrebbe essere anche peggio di Bistoni. Comunque, va bene, diciamo. La Giannini, appena intervenuta, ha fatto chiaramente capire che era stata invitata all'ultimo momento, era assolutamente impreparata su quello che doveva dire, si è messa a far fugliare anche lei un po' di cifre, perché sa come vicino a Bistoni uno cerca di far fugliare un po', ha parlato di grafici ascendenti, non si sa di che accanto cosa. Accanto a un dottore. Accanto a un dottore. E poi, in sostanza, ha però, insomma, vuotato il sacco e ha detto che la riforma Gelmini, comunque, cioè la controriforma Gelmini, quella dei tagli, dello svuotamento. Perché ricordiamolo che non dando soldi tu non fai una riforma. Esatto, ma fai una controriforma. Esatto. Questa riforma che vuole l'accorpamento di facoltà e dipartimenti, vuole il consiglio d'amministrazione guidato come un'azienda. Lei ha detto no, in realtà la riforma Gelmini è una forma necessaria e buona. Queste sono testuali parole. Forse il fatto che fosse impreparata e questa sua ammissione di amore sperticato verso la riforma sono collegati, nel senso forse non ha ben letto cosa dice la riforma. No, vabbè, dai, su. Se, penso sempre male. No, diciamo che l'ha letto e condivide gli obiettivi, dai. Siamo la mission. La mission, esatto. Comunque, a proposito di mission, di questi termini mutuati da quando c'era la famosa infatuazione nazionale per le 3I, no? Inglese, internet, impresa. Esatto. E l'intervento più agghiacciante a proposito di questa ideologia delle 3I è stato quello del già citato Bernardini, presidente degli industriali umbri. È stato agghiacciante soprattutto perché si rivolgeva a una certa platea, cioè autorità politiche, economiche, ma anche culturali, ovvero i professori. Sì, e diciamo soprattutto per le reazioni che ha suscitato o non ha suscitato. Sì, diciamo, facciamo questa spiegazione. Sul palco appunto c'erano Boccali, c'erano altri industriali, c'erano i rettori, ma in platea la maggior parte delle persone che era in platea, a parte qualche giornalista, erano tutti docenti dell'università, che quindi non solo accettavano questa idea di poter andare a parlare di università al 110, cioè come se, che so, gli avvocati dicono vabbè ci vediamo alla spiaggia e parliamo di riformare i processi, cioè alla fine è la stessa cosa, ecco. Comunque tra l'altro è stato interessante il fatto che tu hai parlato di giornalisti. sì, perché è vero. Cioè, a nessun giornalista è venuto in mente che questa associazione esatto. sia un attimo strana, oscura. Esatto. E tutti i giornalisti hanno Infatti, accettato sui criticamente... giornali non ne parla nessuno, cioè tutti parlano dell'associazione come un dato di fatto. Vabbè, esatto, comunque, diciamo... e non problematizzano, non si chiedono non si chiedono perché. Vabbè, ma questo l'abbiamo già detto altre volte. I giornalisti, insomma, sono giornalisti, mica puoi chiedere che facciano anche indagini e facciano e scoprano anche notizie. Vabbè. Mica possono fare inchieste. Vabbè, comunque torniamo. Stavo dicendo, quindi questa platea di docenti non solo ha accettato l'idea di star lì a parlare di università, ma in qualche modo non ha nemmeno, cioè non si è nemmeno arrabbiata, non ha detto niente di fronte alle parole del presidente degli industriali che ora cercheremo di riassumere. Allora, appunto, ha esordito con evidente soddisfazione, cioè aveva un sorriso quasi sadico, sì, nel senso finalmente imparerete anche voi il rischio del fallimento. E appunto le sue parole sono state: benvenuti nel nostro mondo dove si deve competere, dove c'è rigore di bilancio. Mi sa che per sopravvivere fra poco dovrete iscrivervi a Confindustria. Che l'ha buttata lì come battuta, ma fino a un certo punto, perché... Esatto, cioè infatti adesso possiamo fare un discorso un attimo più generale, no? L'altra puntata, la decima puntata, avevamo parlato del processo di Bologna. Avevamo parlato dei crediti, della divisione della laurea in due tronconi, triennale e specialistica, poi triennale e magistrale. E avevamo notato come questa parcellizzazione del sapere, questa divisione, questo accedere prima al titolo erano funzionali a un'ideologia dell'università vista come succube del mercato, diciamo, che poi introduceva all'università un regime di concorrenza mutuato direttamente dal mercato. Esatto, però avevamo anche visto come questa ideologia fosse assurda, in quanto l'università come ufficio di collocamento non ha senso se poi non c'è il collocamento. Esatto. Vediamo gli ultimi dati sulla disoccupazione, ma vediamo anche le nostre esperienze personali. Io sinceramente non so dove collocarmi, credo nemmeno tu. In realtà gli universitari vengono collocati tranquillamente anche oggi, come diversamente abbiamo detto nella pre-sigla. Bernardini ha detto: caro Bistoni, dovremmo proseguire sulla strada, perché in effetti già oggi esatto. l'Università di Perugia, attraverso stage gratuiti, tirocini eccetera eccetera, fornisce e spin-off. Leggevo l'ultimo numero di Università, credo, che è appunto... Chiariamo un attimo qual è il concetto di spin-off. Esatto, parlacene tu che... Lo spin-off è come se una specie di ricerca privata che può essere condotta, che ha valore universitario, ma che è condotta direttamente in aziende private. Quindi chiaramente l'azienda privata si appropria del lavoro, del prodotto del lavoro fatto dal ricercatore. Non paga il ricercatore, perché comunque lo paga meno di quanto lo dovrebbe pagare. Perché il ricercatore, cioè colui che fa ricerca, non il ricercatore intenso nel senso universitario, colui che fa ricerca in quell'azienda è comunque vincolato a stare in quell'azienda ad una collaborazione università-azienda. Comunque, il processo di Bologna era il primo passo, poi c'è stata Zecchino-Berlinguer, poi c'è stata la Moratti, esatto, poi, e poi è arrivata la legge l'evanescente Mussi, che nessuno ha notato, e poi la riforma Tremonti-Gelmini. Che ha fatto la riforma Tremonti-Gelmini? Praticamente, quando la riforma arriva, già dentro l'università c'è questa ideologia del mercato, già ci sono gli studenti costretti a fare stage, che hanno la possibilità di fare più ricerca attraverso spin-off che non attraverso borse finanziate direttamente dall'università, quindi ricerca di base, quella che si chiama ricerca di base, perché è non vincolata. Bene, arriva la Gelmini, la legge 133, e ti dà contemporaneamente tagli ai finanziamenti programmati nei prossimi 5 anni. E ancora dunque sono le briciole dei tagli. Adesso arriverà il grosso dei tagli. E poi insieme ai tagli ti dice: voi però potete diventare fondazione di diritto privato. Cioè potete, l'università, o per meglio gli industriali, hanno la possibilità di fare l'ultimo passo verso l'espropriazione diretta dell'università, cioè quella di entrare direttamente nei consigli di amministrazione, laddove l'università, no, cioè se l'università in futuro non potrà più sostenersi sui finanziamenti pubblici, ha come unica possibilità quella di diventare fondazione. È come se io ti dico a un certo punto: senti, se vuoi io ti do, che ne so, 1.000 euro, ti do da mangiare tutti i giorni, basta, e tu diventi mio schiavo. Esatto, più o meno così. E... Vabbè, questo è il solito estremista. Di pietrista. E vabbè. E comunque poi la, il passo finale è stato il disegno delle leggi Gelmini, no? Che prevede almeno per il 40% l'entrata dei privati nel consiglio d'amministrazione, che ha sancito proprio la, l'entrata definitiva. Ancora per fortuna non è stato discusso, vedremo come andrà a finire. Comunque, torniamo a noi. Quindi la cosa interessante è che ogni volta che di mezzo quindi ci sono politici e imprenditori, questa associazione Università per l'Umbria è sempre protagonista, proprio perché probabilmente, vabbè, i politici sono sempre importanti, ma gli imprenditori sono in qualche modo, rappresentano il futuro dell'università. Quindi i professori dell'università si presentano nelle vesti di universitari per l'Umbria, quindi avvolti ritornano in queste vesti, e quindi la nostra ipotesi qual è? Allora, che, può... è che l'Università per l'Umbria è forse un mezzo per traghettare l'università verso la fondazione, cioè è un mezzo, potrebbe essere un mezzo per traghettare l'università da questa università fintamente pubblica all'università veramente privata. Tra l'altro ci piace ricordare un aneddoto, noi eravamo stati a, cioè avevamo indetto un presidio una volta davanti al rettorato, e in pratica quando abbiamo chiesto a Bistoni la sua posizione politica nei confronti dei tagli, lui ha detto che si opponeva, e appena noi abbiamo detto fondazione, Lui ha detto ma dove l'avete letta la possibilità di diventare fondazione? E anche sulla legge dello Stato, nella legge 133 del 2008, e se n'è andato via anche abbastanza scocciato. Comunque, dicendo io tanto l'anno prossimo non ci sarò. Perciò fate vobis. Va bene, comunque ritorniamo quindi. Allora, non comunque, a caso diciamo che Bernardini ha proprio affermato di condividere tutto l'ampio, cioè a condividere le idee che stanno dietro la riforma Gelmini, dicendo... Questa riforma mette al centro metodo e rigore, quindi al centro dell'università mette metodo e rigore, ovviamente possiamo fare, fatto che esatto, non parla di cultura, conoscenza, diritto allo studio e così via, e insomma, e quindi praticamente alla fine di questa bella serie di interventi noi ci siamo chiesti, ma qua manca qualcosa a parte, esatto, cultura, conoscenza eccetera eccetera, manca il fatto che non hanno mai parlato di studenti, se non in termini di tasse da esigere e o prodotti da scambiare tra università e industria. Come dicevamo nell'introduzione, appunto noi siamo i prodotti che l'università produce e che Confindustria comprerà se sono a buon mercato e se sono ben formati. Esatto. E soprattutto non si è mai parlato del problema dei precari, cioè questi ricercatori che praticamente senza essere assunti, che senza possibilità di essere, la speranza di poter essere assunti, vanno, cioè lavorano gratis. Però questo forse è normale, perché anche perché secondo la circolare di aprile del 2009 firmata appunto da Bistoni, i precari non esistono né devono esistere all'interno dell'università, e non possono stare all'interno dell'università. E non per niente l'associazione Università per l'Umbria è nata 10 giorni dopo questa, esatto, circolare. Però l'associazione del rettore può esistere dentro, esatto, l'università, ed è privata, va detto. Va bene, dai, facciamo il secondo stacchetto e lo dedichiamo alla rettrice. E anche al Giannini. Rettore. E anche perché al rettore. Perché direttore c'è solo Donatella. Questo ricordiamoci. Finalmente di imparare soltanto solo Miss Rettore, e chiamami soltanto Miss Rettore. Donatella è uscita e a casa non c'è. È scoppiata, sparita, non sta più con me. Donatella era una, non cercarla qua giù. Se c'è stata, è cascata, spopolata nel blu. Donatella c'è stata, ma non chiederlo a me. Si è strippata, suonata, impiccata sul bidet. Donatella è uscita e a casa non c'è. Va bene, e dopo aver parlato come sempre del nostro amico Francesco, torniamo agli appuntamenti della settimana. Allora, la settimana prossima avremo due appuntamenti importanti. Il primo appuntamento è il 1 marzo. Il 1 marzo c'è lo sciopero dei migranti, sciopero organizzato prima in Francia, partito con la francese, 24 ore senza di noi, uno sciopero che non è etnico, cioè non è che deve essere fatto solo dagli stranieri, ma è uno sciopero in cui comunque si vuole... c'è un giornata in cui si vuole sottolineare l'importanza comunque del lavoro dei migranti che viene fatto nella nostra società, perché tra l'altro i migranti non sono che un'altra faccia di un altro modo per diciamo, sono una delle varie forme che l'esclusione assume nel mondo oggi, cioè un po' come i precari all'università, i migranti nel mondo del lavoro, cioè sono persone che non hanno diritti e che vengono sfruttati grazie al fatto di non avere diritti. Esatto, infatti, cioè, diciamo, si pubblicizza giustamente come opposizione al razzismo, ma il fatto centrale è l'esclusione, che è una categoria più comprensiva e anche che ci permette di capire meglio la questione. Allora, diciamo che il 1 marzo alle ore 14:30 in Piazza Italia ci sarà una manifestazione organizzata appunto dal Comitato 1 marzo, che ha al suo interno numerose sigle, tra cui anche la partecipazione di Onda Perugia, di cui noi siamo rappresentanti. No, non siamo rappresentanti. Vestitevi di giallo, portate qualcosa di giallo, nastri gialli, magliette, perché il giallo è il colore del 1 marzo. Parliamo invece di quello che accadrà invece il 4 marzo in previsione della settimana dopo. Allora, partiamo... Scusate, il 1 marzo è lunedì prossimo. Partiamo dall'evento più importante, cioè dall'11 al 14 a Vienna si incontreranno i ministri di istruzione di molti paesi europei e parleranno della situazione del processo di Bologna, per cui vi rimando alla puntata scorsa, la puntata 10 del Diario d'Onda. In contemporanea si svolgerà un controvertice degli studenti, l'11 sarà una manifestazione e sarà presente una delegazione anche da Perugia. E allora, per autofinanziare questa delegazione, noi abbiamo pensato la settimana prossima di fare 4 marzo appunto alle ore 17 la proiezione del film Grève Générale. Esatto, che parlerà della protesta che ci sono state in Francia in seguito al tentativo di introdurre il CPE, e questo si svolgerà all'aula 4 di lettere alle ore 5. E poi la sera stessa, giovedì 4 marzo, la sera stessa alle 11 ci sarà una festa Goa invece al centro sociale ex mattatoio di Ponte San Giovanni. Esatto. E i ricavati appunto serviranno per finanziare questa, diciamo, missione dell'Onda. Esatto. E poi l'8 o il 9 ci sarà un incontro appunto sul processo di Bologna, a cui sarà presente anche una docente di diritto privato dell'Università di Perugia. E... va bene, diciamo che per ora vi abbiamo dato anche una serie di appuntamenti. Seguiteci anche sul blog di Diario d'Onda, che sta sul sito di Radiofonica, e sul sito ondaperugia.noblogs.org. Fai bene a dirlo tu, perché io dico sempre www che non c'è. E vabbè, e un saluto da Anna Damolo, che per qualche settimana non comparirà a questi purtroppo microfoni. Purtroppo, e Anna Damolo. E buona Onda, buon point break con noi. Nostro caro Patrick Swayze, che ci accompagna sempre alle fine della nostra puntata. Ma guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola! Sono Anna Adamo. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adamo.